L'insegnamento sulle metafore del comportamento. Il guardiano della porta, il feroce King Dang Kang, per quanto adirato in furie, pure nel suo continuum, le passioni sono prive di nascita. Così, con pratica ascetica veramente grande, si agisca senza aggressività e pensieri distraenti. Con grande pratica ascetica si sconfiggono gli ostacoli. L'essere privo di desideri costituisce il sentiero spirituale del Tathāta, la vera natura delle cose. Come il pesce nel mare nuota senza desiderio né paura. Si agisca tranquillamente, come tagliare diritto per i valichi dei monti, senza seguire odio e amore. Si vada oltre i calcoli. Nella propria condotta, non è necessario entrare nel giudicato e giudicante. Ci si comporti verso se stessi senza attaccamento. E quel nemico che rientra nel campo dei sogni, non sai che sorge dalla tua propria natura? Pure la realizzazione della divinità tutelare sorge dalla contemplazione attuata dalla mente nella mente. Inoltre, poiché è l'io e non l'altro, non vi è null'altro da fare oltre che praticare il GCOD della propria visione in se stessi. Poiché non vi è connessione con gli oggetti esterni, non è possibile il danno, così come il serpente velenoso dell'India. L'insegnamento mediante metafore sul risultato spirituale. Il burro non compie alcuno sforzo per farsi bianco, eppure, conoscendo il burro, si realizza che è bianco. Dopo una qualche semplice conoscenza del burro, si comprende che non è necessario realizzare, per altre vie, il colore bianco. Allo stesso modo, pur non compiendo alcuno sforzo per ottenere la buddhità, conoscendo la mente si consegue lo stato di Buddha. Se si conosce veramente la propria mente, non è necessario realizzare lo stato di Buddha per altre vie. Vincitore su tutto, privo di radice, sia di purificazione che di giudizio, fuori di ciò non vi è realizzazione. Se si comprende realmente così, i Bdud si pacificano e inoltre essi sorgono in se stessi e in se stessi si pacificano.